9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio. Il tema, ve lo ricordo, è il potere del capo dello Stato in materia di esercizio di questo ruolo molto delicato di garante della Costituzione, di rispetto quindi della legittimità della legislazione. Ma quando questo potere si estrinseca, si manifesta, quando il processo di produzione delle norme, soprattutto da parte dell'esecutivo, quindi la stesura dei decreti legge che vengono elaborati dal governo e poi sottoposti all'attenzione del Quirinale, e quando si manifesta in questa fase, diventa un potere delicato, perché la politica può a quel punto ritenere che gli interventi, le osservazioni, quelle che si chiamano la moral suasion, con l'espressione britannica, del capo dello Stato, eccedano, per così dire, il ruolo di garante dell'ordinamento, e inevitabilmente può pensare che il capo dello Stato faccia subentrare in questa sua delicata funzione anche delle opinioni politiche, quindi soggettive, e non solo un ruolo oggettivo di garante del rispetto dell'ordinamento. Ogni Presidente della Repubblica interpreta questo suo delicato ruolo in maniera personale, perché è l'uomo che poi fa anche la funzione. La dottrina si interroga, analizza con profondità e passione come i diversi Presidenti della Repubblica hanno interpretato più o meno estensivamente questo, che tra i più delicati ruoli, tra quelli che il nostro ordinamento, la nostra Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica, e oggi insieme a voi vedremo di capirne di più. Chiamate l'800 24 00 24, e intanto inizio a presentarvi i nostri primi ospiti. Abbiamo innanzitutto il professor Tommaso Edoardo Frosini, che è professore straordinario di diritto pubblico comparato a giurisprudenza all'Università degli Studi di Sassari. Buongiorno professor Frosini. Buongiorno a lei. E abbiamo una piccola precisazione: non sono più a Sassari ma a Napoli. Ah, e quindi ho cambiato sede universitaria. Ha cambiato sede universitaria. Benissimo. Stiamo molto attenti ai titoli dei professori italiani, perché ci tengono e sono scrupolosi. E poi abbiamo Marcello Veneziani. Buongiorno Veneziani. Che scrive su Libero, scrive su Panorama, ricordo il suo ultimo libro Sud, un viaggio civile e sentimentale, che ci potrebbe in realtà poi tornare utile anche nei prossimi giorni, perché vogliamo nei prossimi giorni approfondire l'idea della questa nuova idea di intervento coordinatore per il Sud, che lo stesso Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di stamattina illustrerà e presenterà. Si parla di una nuova cassa nel Mezzogiorno, noi approfondiremo questo tema con ogni probabilità lunedì, e siamo in attesa poi anche di collegarci con Massimo Giannini, vice direttore di La Repubblica, perché a dire la verità è stata La Repubblica che ieri, lo ricordo a tutti voi, ha sollevato con grande durezza questo tema. Tra tutto il panorama dei quotidiani italiani, chi ha letto, ha comprato La Repubblica di ieri, ricorderà che c'era un titolo molto forte: crisi stop di Napolitano sul pasticcio dei decreti, con un editoriale proprio di Massimo Giannini, lo stato di eccezione. Ecco, professor Frosini, iniziamo innanzitutto a vedere in che cosa consiste la correzione che oggi il Consiglio dei Ministri varerà rispetto al decreto legge non ancora approvato in Parlamento. Riguarda nello specifico tre punti. Ricordo solo adesso di che cosa si riguarda, perché non è tanto nel dettaglio tecnico che dobbiamo entrare, quanto nell'analisi generale di questo tipo di interventi di Napolitano. Questi tre punti delicati di correzione richiesta dal Quirinale riguardano innanzitutto i poteri di della Corte dei Conti, perché il giudizio del Quirinale è che questi poteri di indagine da parte della magistratura contabile erano troppo ristretti in un testo come il decreto legge, che non costituiva lo strumento ordinario, essendo uno strumento in cui i motivi di urgenza devono prevalere sulla legislazione ordinaria per intervenire su un tema ordinamentale così delicato, cioè i poteri della Corte dei Conti di esercitare indagini su una lunga lista di articolazioni dell'apparato amministrativo italiano. Poi c'era un secondo punto che riguardava alcune norme delicate dello scudo fiscale, che è in via di introduzione nel nostro ordinamento, e poi un terzo punto delicatissimo che riguarda la proposta di tassazione dell'oro, e quindi si entrava in una materia delicata, perché poiché le riserve auree sono quelle della Banca d'Italia, è una materia tutelata anche dal Trattato europeo, poiché il sistema europeo delle banche centrali su argomenti come questi è tutelato nei confronti degli interventi dei governi. Quindi tre punti delicati. La sua opinione, tanto per cominciare, Sciarè. Il presidente Napolitano esercita questi suoi interventi, non è la prima volta, lo fa sempre più spesso rispetto a decreti, leggi del governo, in maniera più estensiva dei suoi predecessori? È un presidente interventista o dal suo punto di vista invece, se pensiamo ai predecessori, siamo nella norma? Ma direi che tendenzialmente credo che Napolitano eserciti il potere nella misura in cui lo hanno esercitato i suoi predecessori, cioè anche il suo immediato predecessore, cioè il presidente Ciampi, usava prima che il Parlamento o, come nel caso in specie, il governo per il tramite del decreto emanasse un provvedimento, sentire, diciamo, per il tramite dei segretari generali eccetera, in modo tale da smussare quelle norme che potevano avere, diciamo, dei vizi tali da mettere in difficoltà il capo dello Stato rispetto alla promulgazione dell'atto. Quindi è una prassi che ormai si è avviata da lungo tempo nel nostro sistema, che prevede appunto che il capo dello Stato venga a conoscenza del provvedimento prima che questi venga ad essere approvato dal Consiglio dei Ministri e suggerisce alcune modifiche che gli consentano più agevolmente poi di promulgare il provvedimento. Ora, se questa sia una prassi corretta oppure no è un altro problema. Direi che tendenzialmente da un lato semplifica, perché evita lo scontro fra Presidente della Repubblica e Governo, perché nell'ipotesi il Governo andasse avanti fermo nella sua convincimento di approvare quelle norme, poi il Capo dello Stato si sentirebbe in dovere di respingerle e rinviare la legge alle Camere o, nel caso del decreto, come è stato peraltro nella vicenda di Eluana Englaro, mandare una lettera e dire: attenzione, io questo decreto non lo firmerò mai perché lo ritengo manifestamente incostituzionale. Quindi diciamo che rientra, se vogliamo usare così un'espressione nobile del costituzionalismo, nella leale collaborazione fra poteri, cioè si cerca di trovare una concordia fra colui il quale emana l'atto, cioè il Consiglio dei Ministri, e colui il quale lo promulga. Siccome entrambi sono parte della espressione di quell'atto, l'uno nel momento, diciamo, genetico, l'altro nel momento pubblicitario, è bene che i due si incontrino e cerchino di trovare delle soluzioni condivise. Però, professore, la interrompo perché lei dice poi se questo tipo di coordinamento comunque positivo, perché evita che un problema si ingeneri successivamente e lo farebbe in maniera sicuramente più critica agli effetti della funzionalità dell'ordinamento, meglio prima e risolverlo parlando piuttosto che dopo rifiutandosi di promulgare l'atto. Poi lei però ha detto: se questo poi sia o meno corretta questa prassi, un altro paio di maniche. Ma in realtà è proprio questa la domanda di fondo: è una prassi corretta oppure no? Cioè, non è che l'ambito di discrezionalità di questo esercizio di autorità preventiva da parte del Quirinale lede in qualche misura le prerogative di un governo di ritenere questa o quella materia come soggetta a interventi anche radicali, rischiando magari anche, voglio dire, poi un giudizio di incidentalità costituzionale. Un governo può ritenere che nel suo indirizzo politico sia quello di sollevare alcune questioni fino al punto di dire: andiamo di fronte alla Corte, perché no? Certo, ma infatti, diciamo, se si dovesse aprire un contenzioso capo dello Stato o governo, di sicuro la spunterebbe il governo, cioè il governo ha più armi rispetto a quelle del Presidente della Repubblica. Il Presidente si può rifiutare di promulgare un decreto e il governo può effettivamente sollevare un incidente di costituzionalità, può sollevare un conflitto fra poteri davanti alla Corte e può comunque promulgare il decreto. Lo stesso vale con la legge parlamentare. Se il Parlamento approva una legge, il Capo dello Stato la può rinviare, ma lo può fare una sola volta, e accompagnando nel rinvio le motivazioni del perché ha deciso di rinviare, il Parlamento può anche ignorare quelli che sono i suggerimenti del Capo dello Stato e riapprovare nel medesimo testo, e a quel punto il Capo dello Stato è costretto a firmare. Quindi, come dire, c'è comunque uno sbilanciamento a favore del governo o della maggioranza parlamentare, in quanto sappiamo essa è legittimata dal voto popolare, quindi, come dire, ha un surplus dal punto di vista della legittimazione democratica maggiore di quanto ne abbia il capo dello Stato, che invece viene eletto dal Parlamento e non dal corpo elettorale. Allora, direi che cominciamo, no, però la interrompo immediatamente, cominciamo subito con gli ascoltatori che immaginavo sarebbero accorsi numerosi all'appello 800240024. Cominciamo con Angelo da Milano. Prego, Angelo. Buongiorno. Io ho 60 anni e ho vissuto per 30 anni all'estero e sono tornato da 2 anni. Prima che io andassi via, il capo dello Stato non interveniva così. Adesso è 2 anni che vedo che il capo dello Stato, avevo seguito un po' anche Ciampi. Cioè, io dico, ma non è una repubblica presidenziale, è una repubblica parlamentare, quindi il capo dello Stato deve stare a quello che fa il Parlamento. Cosa vuol dire continuamente intervenire? E se non è d'accordo lui, bisogna cambiare la legge. Se io fossi il capo del governo, me ne fregherei e farei tutto quello che voglio. Angelo, quindi capisco bene, il suo sospetto è che l'interventismo sia maggiore perché c'è Berlusconi? Ma ecco, no, ma in questo caso ditelo, nel senso che non me lo fate tirare fuori come il dentista dalla vostra nell'ambito, certo, di giudizi, no, lo voglio dire tutto, nell'ambito di giudizi rispettosi dei ruoli politici e istituzionali dei diversi attori, insomma, diciamole chiare le cose. Poi abbiamo Sergio, sempre da Milano. Prego, Sergio. Buongiorno a tutti. Il mio intervento chiaramente non è sull'aspetto costituzionale in cui non potrei intervenire, ma è appunto sul discorso generale, sull'interventismo o meno del capo dello Stato. Chiaramente, secondo me, il discorso nasce dal fatto della mancanza di dialettica politica parlamentare, perché comunque un potere legislativo ed esecutivo che sono in mano alla fine o guidati da un'oligarchia o comunque da poche persone, almeno questa è l'impressione, il fatto che manchi un'opposizione forte crea un'aspettativa da parte di chi si sente all'opposizione e non si sente bene rappresentato, comunque come Di Pietro, che a mio parere comunque sbaglia a tirare per la giacchetta, come si dice, il Presidente della Repubblica. Però c'è questa richiesta di controbilanciare dei poteri e quindi di avere un potere, in questo caso il Presidente della Repubblica, di garanzia, ma anche di giudizio diverso da quello che può essere concentrato poi alla fine in poche persone, in Berlusconi in questo caso, che comunque rappresenta dal punto di vista parlamentare in Italia un'anomalia rispetto agli ultimi 10 anni, perché comunque... Grazie Sergio. Allora, si è collegato con noi Massimo Giannini. Io non so se mi abbia ascoltato quando ho lanciato la trasmissione. Io ricordavo, Giannini, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Ricordavo che Repubblica in queste settimane, in questi mesi, anche ieri soprattutto con il titolo di apertura, è stato tra i media italiani quello con più energia ha richiamato l'importanza di questo ruolo crescente del capo dello Stato, che ci porta oggi all'emanazione di un decreto legge correttivo di un decreto legge non ancora approvato su punti molto delicati come i poteri della Corte dei Conti, la tassazione dell'oro della Banca d'Italia, le norme di attuazione dello scudo fiscale. E proprio Giannini firmava ieri un editoriale in cui diceva: attenzione, perché noi siamo entrati oramai in un ordinamento nel quale c'è una specie di stato di eccezione permanente, cioè il governo Berlusconi opera in maniera schmittiana, si arroga il diritto su materie delicatissime di stabilire ciò che rientra o non rientra, non più nei limiti della legislazione ordinaria, ma fa decreti legge su tutto. Per fortuna che il capo dello Stato è in grado, in maniera sempre più sistematicamente ricorrente, di bloccarlo. Quindi un giudizio istituzionalmente e politicamente di grande allarme. Giannini, le chiedo di riportarci questo senso di allarme, perché ovviamente il punto di vista del suo giornale e suo in particolare, che interviene spessissimo su questi temi, è un punto di vista che a me colpisce. Sa perché glielo dico? Perché mi colpisce il fatto che gli altri giornali o si mettono la mordacchia, per così dire, oppure vedono la situazione da tutt'altro punto di vista, perché voi siete stati davvero nel panorama dei grandi media gli unici a trattarlo così, e lo trattate sempre più così. Cosa vuol dire? Che gli altri si tappano gli occhi di fronte a una situazione di questa gravità dal suo punto di vista? Ma diciamo che gli altri non si tappano gli occhi dal punto di vista della cronaca, perché i fatti di cronaca politica, come quelli che riguardano questo farsesco decreto anticrisi, lo hanno raccontato tutti i giornali. Magari gli altri giornali non ci fanno dei commenti preoccupati come magari invece li facciamo noi, questa è probabilmente la differenza. Premetto questo per dire che da parte nostra non c'è un'enfatizzazione o una strumentalizzazione dei fatti che accadono. Noi li raccontiamo come li raccontano gli altri giornali. Quello che è accaduto e l'intervento del Capo dello Stato in itinere su questo decreto l'abbiamo raccontato noi così come l'hanno raccontato gli altri giornali. L'allarme deriva dal fatto, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, che questo sistema affrontare problemi così delicati, anche in spregio del ruolo del Parlamento, sul quale peraltro ha esercitato alcuni richiami forti in questi giorni anche il Presidente della Camera Fini, quindi non solo il Presidente della Repubblica Napolitano, sta diventando una prassi, devo dire non da oggi, già la legislatura 2001-2006, soprattutto Berlusconi aveva più volte forzato il quadro delle norme e delle compatibilità costituzionali, costringendo l'allora capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi a rinviargli ben 3 provvedimenti fondamentali: la riforma del sistema radiotelevisivo e quello della riforma della giustizia, soprattutto quello di Castelli. Quindi siamo già nel gorgo di questo avvitamento politico-istituzionale che anche con questa nuova legislatura e paradossalmente con la maggioranza più forte della storia repubblicana non solo continua ma si accentua. Voglio ricordare che il decreto anticrisi ha subito la scorsa settimana la presentazione di un maxi emendamento che è stato approvato con la 23esima fiducia in 15 mesi. Oggi sarà approvato in via definitiva con la 24esima fiducia in Senato. È qualcosa ovviamente intanto testimonia appunto di quello spregio nei confronti del Parlamento di cui parlavo prima, e poi una certa attitudine a vivere con sofferenza o insofferenza il necessario gioco di bilanciamento dei poteri che deve caratterizzare una sana democrazia: il potere legislativo, potere esecutivo e nel caso specifico anche Presidenza della Repubblica, costretta ad intervenire talvolta, lo dico chiaramente, secondo me anche in situazioni borderline, perché anche il Capo dello Stato deve rispettare la Costituzione, ma per evitare fratture e dissidi appunto di ordine istituzionale preferisce agire appunto con un provvedimento in Parlamento ancora in itinere piuttosto che arrivare dopo alla lacerazione di un rinvio alle Camere di una legge appena approvata. Questo anche ci dà la misura, secondo me, della torsione politico-istituzionale al quale soprattutto Berlusconi, secondo me, sta esponendo il nostro paese. Veneziani, vediamolo da un altro punto di vista. Berlusconi sistematicamente lamenta e fa presente che in realtà, se andiamo ad esaminare il corredo dei suoi poteri attuali nella Costituzione che disegna questo sistema, quindi parlamentare, in cui la preminenza è del Parlamento rispetto all'esecutivo, lui dice: io ho poteri scarsissimi, il mio unico potere in realtà si limita a poter stilare l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, e quindi, dice lui, l'eccesso di ricorso alle fiducie in Parlamento eccetera eccetera è una maniera, sia pur surrettizia, per consentire al governo di tradurre in pratica il suo programma, perché altrimenti noi di poteri dall'attuale Costituzione ne abbiamo troppo pochi. Da questo punto di vista, lei che dice? È ordinario l'intervento di Napolitano come quello a cui assistiamo oggi? È fondato anche politicamente che poi il governo italiano dica, guardando agli altri paesi, in realtà noi possiamo fare molto poco e qui tutti si lamentano che addirittura facciamo troppo? Lei che dice? Ma io credo che sia l'intervento di Napolitano, anzi gli interventi di Napolitano, che le posizioni assunte da Berlusconi che lei ha riassunto, rientrano un po' nel clima presidenzialista nel quale siamo entrati da diversi anni e quindi trovano, diciamo, una spiegazione politica. Io non so se costituzionalmente sia un incidente, sia una forzatura quella di Napolitano, però valutando, diciamo, le ragioni politiche si può dire da un verso che sia Napolitano che Berlusconi compiono un braccio di ferro sul piano del presidenzialismo, nel senso che chiedono a sé interventi che possano in qualche modo dare un ruolo più preciso, più concreto alla loro figura istituzionale. Dall'altra parte, nel caso di Napolitano, ci sono anche due ragioni politiche che conosciamo: da una parte il suo interventismo compensa la fragilità dell'opposizione e dall'altra compensa una leadership forte e debordante come quella di Berlusconi. Però ecco, le osservazioni che si possono fare a Napolitano sono, a mio avviso, preciso di due ordini di motivi. La prima è che se decide di entrare in questo modo nel gioco, Napolitano appare non più come un garante extra gioco, ma un garante che entra nel gioco e che quindi perde in qualche modo il ruolo di garanzia, perché nel momento in cui interviene in ambiti che sono considerati non propri da un punto di vista formale e soprattutto entra in un ambito politico di compensazione di un deficit dell'opposizione o di un ruolo forte della leadership di governo, allora gioca un ruolo politico e quindi deve accettare, mettendosi in gioco, anche di essere, come dire, respinto nel gioco politico. E in particolare questa osservazione la faccio in modo polemico se considero che sono passate nell'arco di questi due anni anche leggi su cui magari Napolitano avrebbe dovuto intervenire autorevolmente come garante della Costituzione. Ne cito una tra tutte: quando si toglie ai cittadini il diritto elementare previsto dalla Costituzione di scegliersi i propri rappresentanti, il capo dello Stato ha il diritto dovere di intervenire in quel caso. Le dice la legge elettorale? Sulla legge elettorale, sì. E non mi pare che Napolitano sia intervenuto, quindi diciamo questa intermittenza di interventi sembra rispondere più a un quadro di equilibri politici e quindi a un'appartenenza a schieramenti politici piuttosto che a un ruolo super partes, quindi questa è l'obiezione che mi sentirei di fare a lui. Stefano da Sassari, prego. Sì, buongiorno. Io vorrei fare un intervento che va un pochettino oltre la semplice questione se tecnicamente Napolitano sta o meno andando oltre il suo ruolo istituzionale, che non credo assolutamente lo stia facendo, perché la Costituzione gli garantisce questo ruolo, anzi se volesse potrebbe utilizzarlo in maniera anche un pochettino più ampia. Però credo che non si possa fare a meno di distinguere che i vari Presidenti della Repubblica hanno utilizzato questo ruolo in maniera diversa a seconda dei governi che si sono trovati di fronte. Ok, quindi conseguentemente l'attività che viene svolta da un governo piuttosto che da un altro non è così staccata dal ruolo del Presidente della Repubblica. Poi che Berlusconi si inventi che lui non ha poteri, lo sappiamo come Berlusconi, ma Napolitano per come l'ha vedo io sta intervenendo anche poco, e secondo me bene ha fatto chi mi ha preceduto nell'intervento, credo Veneziani, a dire che onestamente non si possa fare a meno di vedere come non si è intervenuto per esempio sul fatto della legge elettorale. Noi abbiamo cambiato il sistema elettorale in Italia, che da parlamentare è diventato presidenziale di fatto, dove noi eleggiamo il premier sostanzialmente senza che nessuno dica nulla. Quindi, grazie Stefano. Quindi lei dice gli interventi del capo dello Stato dipendono anche dall'ipotetico esercizio di abusi: se è più intenso da parte dei governi è più intensivo anche l'intervento dal capo dello Stato, però il capo dello Stato a sua volta non interviene su alcune materie. Eccoci tornati in studio, stiamo tentando di capire meglio insieme a voi e con voce autorevole della vita pubblica italiana se gli interventi sempre più sistematici, sempre più invasivi, insomma, del capo dello Stato nei confronti dei decreti legge del governo, come avviene oggi, siano nell'ambito di un pieno e del tutto legittimo esercizio anche ordinario rispetto a ciò che i predecessori di Napolitano hanno già fatto, oppure se in realtà Napolitano debba intervenire in maniera più frequente e sistematica perché c'è un crescere di ipotetici abusi da parte del governo in carica. Ancora un ascoltatore, Michele da Milano, prego Michele. Buongiorno, io volevo intervenire sul fatto appunto elettorale. Per ciò che riguarda a livello del Presidente della Repubblica, io penso che la cosa migliore sarebbe quella se venisse eletto dal popolo. Questo perché? Perché innanzitutto il popolo chiaramente dà credibilità a quella persona, probabilmente una persona della massima rispettabilità, quindi conosce bene il personaggio, e non il Parlamento, perché a livello politico chiaramente noi vediamo una cosa diversa. Non vediamo altro che c'è un disfattismo alcune volte tra opposizione e governo. E questo io lo vedo e lo posso constatare, sono 40 anni che sto votando. Il problema principale qual è? Se va al governo la destra, in automatico la sinistra comincia a creare dei problemi, ne tira fuori di tutto e di più, a cominciare dai fatti giornalistici, queste cose che veramente fanno schifo e fanno ridere la gente. E oltretutto facciamo una figuraccia con gli altri paesi esteri. Per ciò che riguarda il capo del governo deve essere l'esecutore di tutto ciò che sono gli adempimenti che i cittadini e tutto il resto, lo Stato italiano, dovrà fare in qualche modo, e quindi dovrà portare a termine quei programmi. Sono dei programmi che vanno fatti, che sia opposizione o che sia governo, non ha importanza, però intanto se c'è un programma da seguire che venga fatto. Cioè non se io come cittadino non posso assistere al fatto che se ci va al governo, tanto per dire la sinistra, fa un programma. Dopodiché, no, Michele, la interrompo perché ho capito la sua osservazione di fondo, cioè siamo un paese ancora di bipolarismo tribale, per così dire, non c'è una condivisione di valori di fondo, ma la questione non è tanto qui di contestare il pieno diritto di maggioranza di qualunque colore politico di attuazione dei propri programmi. La questione di cui stiamo parlando oggi è quando e se eventualmente nell'attuazione di questi programmi attraverso strumenti legislativi si vada oltre ciò che è prescritto nel nostro ordinamento per i diversi strumenti legislativi, allora in quel caso il capo dello Stato come garante, come e se deve intervenire prima per evitare i contrasti, deve aspettare l'emanazione, rifiutare la promulgazione. Cioè stiamo parlando di questa specie di area grigia molto estesa in realtà, in cui il capo dello Stato è chiamato a decidere come, se esercitare i propri poteri, in quale fase del procedimento, puntando ad accrescere eventualmente le conseguenze critiche dei propri interventi, se le rinvia, perché le rinvia a fasi a quel punto più delicate del perfezionamento dell'atto, oppure se fare, così dire, moral suasion, intervenire prima e ottenere quello che per esempio ottiene oggi, cioè che un decreto legge non ancora approvato venga corretto con l'emanazione di un nuovo decreto legge, che insomma non è proprio una procedura ordinaria, ecco, da seguire. Frosini, diceva Veneziani prima, in realtà noi siamo già entrati in un sistema presidenzialista da questo punto di vista. Che dice lei? Ma l'osservazione è interessante, però vorrei far emergere un paradosso, cioè nel nostro ordinamento stiamo assistendo a una doppia presidenzializzazione, per così dire, cioè da un lato il tentativo del Presidente della Repubblica di diventare più forte attraverso i suoi interventi e quindi, diciamo, il presidenzialismo classico che vuole che il capo dello Stato abbia poteri di governo, dall'altro però anche il presidenzialismo dovuto all'emergere del capo del governo, quindi ci troviamo in una sorta di sistema un po' bicefalo in cui il presidenzialismo vorrebbe che si fosse identificabile nella figura del capo dello Stato o piuttosto in quella del capo del governo. E qui in fondo lo scontro, perché Berlusconi rivendica a sé il fatto di essere legittimato dal voto elettorale e quindi è presidenzialista nella misura in cui è capo del governo. Il Presidente della Repubblica, nonostante goda di legittimazione popolare, ritiene però di poter esercitare una serie di poteri, a cominciare da questo della moral suasion, tali da far avvalorare la sua figura e il suo ruolo maggiormente presidenziale. Ora bisogna sciogliere questo nodo, perché il presidenzialismo è uno, non possono identificarsi due forme di presidenzialismo. Direi delle due, nel nostro sistema la più consona dovrebbe essere quella che vede nel capo del governo il presidenziale, perché è un sistema il nostro in cui ormai si è avviati verso una democrazia maggioritaria, in quella formula che si usa chiamare premierato, no? Sulla quale peraltro la bicamerale e il progetto che poi venne bocciato dal referendum costituzionale nel 2006 aveva prefigurato, cioè un rafforzamento concreto dei poteri del capo del governo pur rispettando quelli che sono i meccanismi del sistema parlamentare. Altrimenti altra cosa è il presidenzialismo statunitense, dove tu il capo dello Stato lo eleggi direttamente e lo fai diventare anche capo del governo. Giannini, lei diceva questo decreto legge, quello che viene corretto attraverso il nuovo decreto legge di oggi, era una specie di accozzaglia di buone intenzioni e pessime diversioni. Le faccio una domanda: siccome le norme che vengono corrette attraverso il decreto legge che esprime l'intervento del Quirinale di oggi nascevano in realtà materialmente più delle volte attraverso degli emendamenti parlamentari al decreto legge precedente, la sua impressione qual è? È che il governo, consapevole del fatto che se avesse messo fin dall'inizio quelle norme nel decreto legge si sarebbe reso ancor più potenzialmente esposto alle censure del Quirinale, allora preferisce ricorrere alla finzione che alcuni parlamentari poi della maggioranza facciano fiorire queste norme nel passaggio parlamentare, oppure è un'ulteriore complicazione reale, cioè che poi anche rispetto ai testi del governo il Parlamento faccia peggio e il Quirinale debba in tempo reale guardare gli uni e gli altri? Lei ha l'impressione che si tratti di una regia ben concertata nell'ambito della maggioranza o che germi di questa specie di anomia rispetto alle regole ordinamentali siano equamente diffuse tra governo e Parlamento? No, io penso che sia la prima ipotesi a cui lei faceva cenno, quella più realistica. Mi sembra ormai appartenere alla prassi consolidata del modo di governare del Partito del Popolo delle Libertà, quello di presentare decreti che in partenza sono scatole semivuote e che poi via via nel corso del dibattito parlamentare, meglio se addirittura d'arrivo, vengono riempiti di contenuti che hanno poco a che vedere con la matrice fondamentale del provvedimento così come è stato presentato fin dall'inizio e nei quali si veicola attraverso lo strumento preferenziale dei maxi emendamenti che sono un solo emendamento di magari 15, 20 articoli, 100 commi dentro i quali si infila di tutto e di più. E peraltro anche questa, voglio ricordarlo, è stata una prassi più volte stigmatizzata dal Presidente della Repubblica e insisto anche in questa occasione, perché almeno anche questo ci fa capire di cosa stiamo parlando, anche dal Presidente della Camera Gianfranco Fini, che è un importante leader del centrodestra, oltre che essere la terza carica dello Stato. Quindi voglio dire che l'anomalia, insisto, secondo me non sta e non risiede nella presidenzializzazione di Napolitano e del Quirinale, che è solo una risposta alla presidenzializzazione, quella sì massiccia e pervasiva, che Berlusconi ha infilato nel nostro sistema politico e istituzionale. Veneziani, senta, andiamo anche, permettiamoci per così dire, nel pieno rispetto ovviamente dei giusti termini, ma permettiamoci anche di dare un giudizio ormai su questo mandato di Giorgio Napolitano. Insomma, io mi permetto di dire che Giorgio Napolitano è un importante esponente del mondo comunista italiano, non particolarmente noto per chi mi ha seguito la parabola nei decenni, per essere un uomo di strepitosa ed energica capacità di decisioni di rottura, e lo dico rispetto alla sua parabola politica, rispetto ai tempi in cui ha maturato giudizi su questioni fondamentali come la libertà nell'est e così via. Una persona di grande finezza, di grande cultura, uno tra i primi che dialogò con gli Stati Uniti, contemporaneamente però insomma una persona dai tempi lenti decisionali. Allora la cosa che mi colpisce è come, essendo queste le caratteristiche della parabola politica di Napolitano, secondo me mi risulta poi difficile vederlo come un Presidente della Repubblica davvero troppo interventista. O che cos'è? Il fatto che poi quando uno va al Quirinale diventa interventista a prescindere, anche quando ha una natura diversa, personale. Lei come la vede? Ma io credo che innanzitutto sia, come dire, stimolato da un boato permanente che non viene tanto dall'opposizione quanto da alcuni giornali, da alcuni gruppi del nostro paese piuttosto influenti, che chiedono appunto a Napolitano di compensare il debordante protagonismo di Berlusconi. Quindi credo che quella sia la ragione primaria. Napolitano sicuramente è un uomo di equilibrio, di cultura, un notabile meridionale raffinato, anche se bisogna pure ricordarlo per incidence che fino, come dire, all'età della pensione si è dichiarato comunista, cioè fino all'età di 65 anni, e credo che anche questo, diciamo, debba avere pure un peso e un valore. Ma io credo che ci sia però un problema di anomalia del nostro sistema, in cui non è Napolitano il problema e non è nemmeno Berlusconi. L'anomalia del nostro sistema, quella che ci siamo portati appresso fino al governo Prodi, che in cui è esplosa in maniera evidente, è il contrario, il deficit di decisione, l'impossibilità di decidere, la subordinazione dell'azione di governo ai fragili equilibri parlamentari. Quindi voglio dire, l'azione di Berlusconi oggi risponde a un'anomalia sistemica del nostro paese e politica, cioè a un'anomalia duplice del nostro paese che impediva ai governi di agire. Quindi è vero che alle volte c'è, come dire, qualche forzatura in alcune logiche di decreto del governo Berlusconi, ma questo risponde a una necessità di decidere di cui il nostro paese avverte l'urgenza e di cui avverte anche il Presidente del Consiglio il consenso, perché quel che chiede, come dire, il paese a un governo e la possibilità di decidere in tempi brevi, di non farsi irretire nella logica ricattatoria anche di piccoli gruppi parlamentari, e questa volta ci sono i numeri per andare avanti, e quindi chiede in qualche modo interventi di questa natura, a cui cerca di compensare, ripeto, Napolitano, ma entrando nel gioco, ed entrando nel gioco non rappresentando tanto, come dire, gli interessi del paese, quanto la logica degli schieramenti parlamentari, perché i suoi interventi, se poi andiamo a vedere, rispondono, diciamo, a una logica di riequilibrio all'interno del Parlamento, ma non rispondono, come dicevo prima, a proposito della legge elettorale, agli interessi primari dei cittadini e alle esigenze che gli stessi cittadini pongono al capo dello Stato. Abbiamo Edoardo da Roma in linea. Prego, Edoardo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Direi che forse c'è troppa personalizzazione in quanto stiamo dicendo, siamo forse troppo abituati a ragionare in termini di contrapposizione, di competizione tra persone. Ad esempio abbiamo detto, ho sentito molto su chi è napoletano, cosa vuole Berlusconi, solo che credo che in questo momento emerge, forse come diceva ultimamente Veneziani, un'anomalia del sistema istituzionale che non si evolve. Ricordiamoci che la promulgazione non è una firmetta, ma è un controllo di forma e di merito. E oggi c'è molto disordine nelle leggi, forse questo controllo di promulgazione è forse anche troppo poco esercitati, tant'è vero che si fanno leggi, decreti che sono dei veri e propri calderoni pieni di norme disorganiche relative a cose diversissime. La legge invece deve essere chiara proprio a garanzia dei più deboli. Grazie Edoardo. Va bene. Grazie Edoardo. Piero da Latina, prego Piero. Buongiorno, secondo la mia opinione il primo strappo alla Costituzione è stato fatto quando per la prima volta è stato permesso di inserire il nome di colui che guidava la coalizione nella scheda elettorale. Da lì è nato tutto l'equivoco. Perché lei dice in quel caso non siamo più una repubblica parlamentare, ma introduciamo una repubblica con una forma di governo preminente sul Parlamento, sia pur surrettiziamente attraverso questa indicazione del capo della coalizione alla scheda elettorale. Questo è il punto? Il primo strappo alla Costituzione, la nostra Costituzione non prevede assolutamente quello. Quindi comunque qualsiasi discorso non può essere fatto a prescindere dalla Costituzione. C'è la Costituzione che è la legge fondamentale. Se si vuole poi andare avanti, bisognerebbe prima cambiare le regole del gioco e quindi la Costituzione, e poi andare avanti. Grazie Piero. Eccoci tornati in studio. Tocca ricordare per l'osservazione di alcuni di voi tramite gli sms che l'osservazione relativa all'intervento mancato del Quirinale a proposito della legge elettorale non si riferiva personalmente a Napolitano, che all'epoca non era lui il Presidente della Repubblica, ma si riferiva alla funzione del Quirinale, punto numero uno, e ce l'hanno lasciati sul punto. Ma come comportarsi di fronte a materie che la Costituzione non disciplina in materia esplicita? Faccio un esempio che scalda molti dei nostri ascoltatori che su questo danno ragione a Massimo Giannini e alla tesi sua di Repubblica per la quale stiamo assistendo a forzature sempre più estese. Alcuni di voi ci ricordano con i vostri sms, ma insomma voi state accusando Napolitano di essere un attore troppo interventista, quando invece di fronte a una cosa come il lodo Alfano l'ha firmata senza troppo discutere e male ha fatto. I punti di vista sono diversi. Professor Frosini, come comportarsi nelle materie in cui la Costituzione esplicitamente non prevede nulla? Per esempio l'indicazione di un nome sulla scheda elettorale di chi guida la coalizione effettivamente rappresenta una torsione rispetto a un modello pienamente e puramente parlamentare di forma. Quindi lei che dice? Ma innanzitutto direi che ciò che non è vietato è lecito. Meno male, anch'io condivido questa sana impostazione liberale. Sì. Esatto, e quindi vale questo principio anche a livello costituzionale, non solo legislativo. Poi tutto, diciamo, è cambiato dal momento in cui si è introdotto un sistema elettorale semi-maggioritario nel 94 che ha determinato il formarsi di un assetto bipolare. Da lì allora la necessità di individuare un leader di ciascun polo che sfidandosi fra loro per la conquista della maggioranza. Cioè, come dire, è un'evoluzione naturale del regime parlamentare che una volta che si è assestato dopo 50 anni di proporzionalismo e quindi dopo 50 anni di governi di coalizione, dopo 50 anni di mediazioni parlamentari, si è evoluto nella sua, diciamo, configurazione configurazione britannica, il modello Westminster, che vuole che oggi, anziché esserci due partiti, ci siano due poli e al vertice di ciascun polo ci sia un candidato che è direttamente candidato alla guida del governo. Su questo io personalmente non vedo nulla di male, la nostra Costituzione lo consente, perché le Costituzioni non possono che essere elastiche. Se fossero rigide, analitiche su tutti i passaggi riferiti alla forma di governo, finirebbero con l'essere strappate. Ora, non è il caso di ricordare la vicenda della Costituzione di Weimar, che proprio prevedeva alcune rigidità, diciamo così, imponeva per esempio il sistema elettorale proporzionale, e questo ha impedito il cambiamento della legge elettorale e quindi la trasformazione, diciamo così, dell'assetto partitico in quegli anni in Germania. Aggiungo, con riferimento alla, direi che da un lato è la riforma elettorale che venne fatta nel 94, ma prima ancora un dato molto importante che talvolta si trascura è l'anno precedente, nel 93, è l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti della provincia, poi confermata nel 2001 con l'elezione diretta dei presidenti della regione. Ora, come potrebbe capire un corpo elettorale che tu lo chiami ad eleggere direttamente i vertici degli esecutivi locali a tutti i livelli, comune, provincia e regione, mentre a livello nazionale vorresti mantenere una scelta arbitraria del capo del governo sulla base, diciamo, di consultazioni di maggioranza che dovrebbero essere esplicitate dopo il voto elettorale? Non è possibile, sarebbe paradossale, sarebbe asimmetrico rispetto a un disegno costituzionale unitario. Ora, anche a livello nazionale, sia pur non ci sia l'elezione diretta, è chiaro che la crescita del disegno costituzionale porta a consentire al corpo elettorale di esprimersi anche su chi deve essere il capo del governo, quindi attraverso questo meccanismo del leader della coalizione, e laddove in prima battuta addirittura era prefigurato con il nome sulla scheda, ma non c'era nessun vincolo giuridico, un vincolo politico. Ma ripeto, secondo me è un effetto crescente che io ho dato a partire dalla riforma degli enti locali, della forma di governo degli enti locali, con l'elezione diretta del sindaco e del presidente, certo, della provincia. Benissimo. Giannini, le chiedo, in questo caso chiedo al giornalista che per la sua autorevolezza è diventato negli anni in qualche misura anche uno dei migliori, dei più ricercati confidenti di capi dello Stato. Lei ha questa qualità, poi ha scritto anche libri grazie a questo. Secondo me questo significa che, insomma, chi sta al Quirinale tende abbastanza a fidarsi di come lei svolge il suo mestiere. Questo lo dico a suo onore. Grazie a questo. Vorrei capire, se la sente di dare un'interpretazione di come Napolitano, da che è stato eletto, avverte personalmente, rispetto a come lei lo conosce, alla parabola politica che citavamo prima parlando con Veneziani, questo ruolo così delicato di poter dire a volte dei no, perché io non credo che sia molto consentaneo, coerente al suo carattere, quindi secondo me c'è anche un certo disagio certe volte nel farlo, una certa ritrosia, come a misurare davvero, ma lo devo fare, non lo devo fare, mettetemi nella condizione più di non farlo che di farlo. Secondo me, e secondo lei, è sbagliata questa analisi, oppure lì è cambiato Napolitano come tutti, un po' come Scalfaro ai vecchi tempi, quando si arriva lì, boom, poi si tira fuori lo sciabolone. Lei che dice? Sì, no, io non credo che Napolitano rischi un andamento del suo settennato ricalcato sul modello per esempio di Scalfaro. Sono invece più incline a condividere con la prima parte della sua riflessione, cioè ho l'impressione che per sua natura Napolitano non è mai stato un combattente o un militante così appassionato e così interventista come potrebbe essere stato su un fronte opposto, appunto, Scalfaro negli anni della Democrazia Cristiana. Ho la sensazione invece, come esattamente diceva lei, che non dico che lo faccia controvoglia, ma che lo faccia con il dispiacere e la consapevolezza, in qualche momento persino amareggiata, di chi deve prendere atto del fatto che, come dicevo prima, le torsioni al sistema che il capo del governo e l'esecutivo cercano di imprimere in tutto il procedimento legislativo lo obbliga, suo malgrado, a dover estendere quella che i costituzionalisti chiamano la fisarmonica dei poteri presidenziali fino alla sua massima estensione, come dicevo prima, addirittura fino ad arrivare ad un confine quasi labile tra tutto ciò che è costituzionale e tutto ciò che rischia di non esserlo più. Quindi lui lo fa, secondo me, non in forza della sua profonda convinzione di dover incarnare un presidenzialismo del Quirinale contro il presidenzialismo di Palazzo Chigi, no, non è questo, è più che altro la necessità che a questo si arrivi per cercare di mantenere nei giusti binari il nostro sistema politico istituzionale. Quindi ripeto, ho l'impressione che, come peraltro è dimostrato dai fatti, lui cerchi di usare il meccanismo della moral suasion, cioè degli interventi in itinere, che pure secondo me talvolta sono discutibili, perché tanto per dire, anche in questa occasione del decreto anticrisi forse sarebbe stato più lineare che lui invece di intervenire prima avesse respinto oggi, se nell'ipotesi in cui il Senato l'avesse convertito, il decreto legge, glielo rimandava alle Camere e diceva: no, mi dispiace, è incostituzionale, adesso sono affari vostri se lo ne presentate un altro, se prolungate il lavoro e fate alle ferie, a me non interessa, so solo che è incostituzionale. Ha preferito non farlo, come peraltro aveva fatto col pacchetto sicurezza qualche settimana fa, che ha promulgato con una lettera piena di rilievi di ordine costituzionale. Anche lì si poteva dire perché l'ha fatto, non poteva rinviare direttamente alle Camere la legge. Ripeto, io credo che stia cercando di limitare al massimo tutti gli strappi istituzionali veri e propri, e quindi questo secondo me tradisce quella natura collaborazionista, diciamo così, a cui lei faceva riferimento. Diciamo cooperativa, si dice collaborazionista, sì, rispetto, esatto, al dibattito, ecco, d'accordo. Se no facciamo Vichy rispetto ai nazisti, non evochiamo davvero per questa carità. Atmosfera. No, niente di tutto questo. Senta, abbiamo Paola da Caserta, che ci dice Paola? Io lo dico con una certa soddisfazione, perché poche ascoltatrici telefonano, io so che sono antipatico alle signore, però poche ascoltatrici. Paola da Caserta, prego. Buongiorno, io volevo chiedere, insomma, si parla di interventismo del capo dello Stato, ma si ignorano i presupposti, cioè la questione qual è? Se le leggi che il Berlusconi sta cercando di portare avanti o le norme soddisfano i requisiti di necessità e urgenza, allora può diciamo promulgarle per decreto, altrimenti il capo dello Stato dovrebbe intervenire. Questo è il punto, cioè non si può secondo me di parlare del interventismo del capo dello Stato in generale, ma sempre a partire dai presupposti, cioè da quello che di volta in volta Berlusconi sta proponendo. Quindi se non ci sono i requisiti è chiaro che il capo dello Stato debba intervenire. Io poi penso che qua ci stiamo dimenticando che siamo una repubblica parlamentare, c'è un ricorso continuo alla fiducia e però non si spiega, secondo me. I giornali non spiegano abbastanza qual è il motivo per cui una maggioranza così ampia fa ricorso alla fiducia, e cioè, se ho capito bene, per tagliare poi il dibattito parlamentare, i tempi lunghissimi che possono derivare da un ostruzionismo eccetera eccetera. Però noi siamo in una repubblica parlamentare e quindi queste sono le norme che regolano la vita e il dibattito parlamentare. E grazie poi, Paola, è molto chiaro quello che dice. Io dico semplicemente che difendo anche e tenderei a comprendere un governo che, per esempio, una materia delicata come quella, la tassazione delle riserve auree, io non sono di questa idea, ma capirei che un governo, di fronte al fatto che è una materia levata dalle proprie competenze dal trattato che disciplina il potere della BCE, su questo se la sentisse anche di fare un decreto legge su questo, sapendo di esporsi a una polemica di costituzionalità legittima o illegittima a livello italiano e internazionale, perché a volte solo così si può sollevare un caso. Tenga conto che faccio questo esempio sapendo che la maggioranza dei governi europei su questa materia vorrebbe intervenire, e talvolta bisogna mettere in conto anche esporsi a dei giudizi di costituzionalità quando si reputa che quella materia debba essere riappropriata della sfera di governo della politica. Marcello Veneziano, un'ultima osservazione. Sì. Ma insomma, secondo lei un Berlusconi presidente della Repubblica, non adesso non entriamo nel giudizio privatamente, personalmente, se sarà in grado o meno, questo lo deciderà la storia. Che presidente della Repubblica sarebbe, secondo lei? Si metterebbe anche lui a fare le pulci ai decreti dei governi? Beh, sarebbe inevitabilmente interventista, ma credo che sia in questo caso, sia nel caso si voglia mantenere, come dire, la struttura di un paese con una presidenza del Consiglio con poteri presidenziali, credo che sia necessario a questo punto esplicitare l'implicito presidenzialismo del nostro paese. Cioè, è inutile viverlo come noi lo stiamo vivendo ormai da diversi anni e da Cossiga in poi, come un presidenzialismo implicito e ambiguo. Ambiguo perché è fondato sui poteri appunto del capo dello Stato e sui poteri del capo del governo. È necessario arrivare ad una norma che in qualche modo stabilisca in una cornice costituzionale la necessità del presidenzialismo. Io credo che Berlusconi ci abbia pensato anche nella prospettiva di diventare lui appunto Presidente della Repubblica. Il problema è che noi non abbiamo ancora risolto, il problema, come dire, della doppia investitura, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio, arrivando a un sistema proprio americano, o mantenendo questa struttura che a mio avviso risale, come dire, a una specie di orfanità della monarchia, avere un capo dello Stato super partes e dall'altra parte un capo del governo con pieni poteri, ma credo che a questo si debba arrivare. Un'ultima solo veloce osservazione sulla questione di Napolitano. Ecco, io la penso esattamente all'opposto di quel che diceva prima Giannini, cioè mi sembra un segno di buon senso da parte di Napolitano quello di intervenire prima per non arrivare ad uno scontro istituzionale forte attraverso appunto il respingere l'intervento del governo, la legge del governo, un tentativo proprio di avviare una collaborazione operosa tra il Quirinale e Palazzo Chigi che può servire a rendere spediti i provvedimenti ma al tempo stesso anche bilanciati ed equilibrati, quindi mi sembra da questo punto di vista un atto di buon senso. Quella che sembra un'ingerenza, un atto improprio da un punto di vista formale e costituzionale, è un atto politicamente significativo e a mio avviso pacificante. Grazie, grazie a Veneziani, come grazie a Massimo Giannini e al professor Frusini. Mi pare che in sintesi oggi abbiamo convenuto sul fatto che sia ancora più garante, che non ancora attore, che interviene a gamba tesa il Presidente della Repubblica. Io vi ricordo per le vostre osservazioni la mail 9@radio24.it, chi fosse poi interessato invece ai miei approfondimenti www.chicago-blog.it. Ringrazio in regia Giorgio Mattei, Valerio Rocchetti e mie braccia destre, per così dire, Gloria Guerrero e Laura Faggin. Appuntamento a lunedì, la linea al giornale radio.